14. Notte. Nebbia. La campagna nei pressi di Vauxhall. Rape a sinistra, cipolle a destra. Cinque spettri marciavano allineati sul limitare di un fosso. Il capofila sniffava tabacco per asciugare il cervello dai vapori. Il secondo si sforzava a ritenere accesa la torcia e bestemmiava controvento. Le imprecazioni facevano da paralume. Il terzo rigirava tra le mani una spranga. Quarto e quinto erano agganciati l'un l'altro da una scala di legno. Una macchia di luce annegava nell'aria fradicia. Gli spettri sembravano intenzionati a raggiungerla, ma il fango gelato rallentava il passo, duro come pietra, rosario di buche e crepacci. I ramoscelli marci sparpagliati a terra erano coltelli e trappole d'acciaio. Tutto era rigido e spigoloso, anche la nebbia. Giunti a un altro recinto, la marcia si arrestò. Le fiamme della torcia danzarono sui volti. Una cicatrice, un naso arrossato, un incisivo mancante. Oltre i pali conficcati nel suolo, risa sguaiate che non parevano umane. «Merda, Dave! Sei il gemello scannato del poldo qua sopra!» L'ammirazione dell'orco era sincera. Con un occhio studiava la mascherata indiana del compare, con l'altro l'immagine di un selvaggio su un vecchio almanacco. L'imperatore si sforzava di inquadrare la testa in una scheggia di specchio piantata su una cassa. «Gemello bastardo!» precisò il biondo. Si avvicinò all'orco e indicò il ritratto dell'indigeno pennuto. «Queste sono aquila, mica pollo!» «Pollo tua madre!» L'imperatore si girò di scatto. Avessero chiamata mignotta la sua di madre, non se la sarebbe presa tanto a cuore. «Gallo di Turchia si chiama, pavone americano!» «Turchia? Cazzo c'entra la Turchia?» «America, India, Turchia, è la stessa sguana», commentò il più magro, con aria schifata. L'imperatore batté la mano sulla fronte, appena sotto le penne di tacchino. «Questa qui è una mezzaluna turca, guarda un po', e sai chi me l'ha fatta?» «Sì, Dave», annuì l'orco con fare compito. «Le cazzate sono importanti», sentenziò l'imperatore. «L'anima del commercio, vi dico. Un poldo tamagno si sgama da quelle». «Appunto». Il biondo era l'unico che poteva permettersi tanta insistenza. «A frugare bene, le ciuffe d'aquila te le gagnavi in qualche buco. Invece no, ci hai portato nell'etame di Vauxhall per grattare due polli. Saranno pure americani, ma tanto peggio. Magari averci su quelle ciuffe vuol dire qualcosa in selvaggio. Magari vuol dire sono un coglione. E tu per farlo americano vai dal principe dei Mohawk con sono un coglione stampato sulla biffa». «Mi fotte quanto una morta fredda, il principe indiano». «Ti fotte? Ma se gli hai scritto un papiro lingua in culo!» «Dio scannato, Neil, tu che hai studiato? La lettera non è per il principe, è per il curant!» «Non è per il principe?» si sbalordì lo sfregiato. «No, ciucchi dannati! Darla al principe è tutta commedia, per farsi l'occhiare dai babbioni! I babbioni l'occhiano, cianciano, gli viene la fotta! Gli scrivani cianciano, stampano, riempiono le gaioffe! I malcichi si cagano, le mignotte si arrazzano, i sudditi sgobbano! L'imperatore e i suoi soma spallano denghi senza sguanarsi». Grida eccitate accolsero la tirata del capo. Anche il biondo parve mettere da parte i dubbi per unirsi al coro. L'imperatore estrasse lo stuzzicadenti e si pugnalò una gengiva. «Andate ad acchittarvi adesso», ordinò. «State per diventare i selvaggi più tamagni di Londra».